in primo piano. Alle 7:33 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani e lo facciamo a partire dal Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, la cui apertura oggi è del rilancio professionisti in trincea, perché proprio a questo tema è dedicato il secondo dei quattro inserti che sono specifici sui contenuti del decreto rilancio. Ce ne saranno poi altri due. Quello di oggi è dedicato specificamente al lavoro e professionisti. Il panorama è ricco, si parla di ammortizzatori sociali, proroga del blocco dei licenziamenti, sanatoria per i lavoratori agricoli, per colf e badanti e via dicendo. Poi si arriva allo smart working, le regole per i bonus, e quindi appunto questo è il secondo inserto al quale si dedica anche l'apertura. Monta la protesta dei professionisti per l'esclusione dal contributo a fondo perduto previsto nel decreto rilancio, che infatti andrà ad imprese, artigiani, commercianti, ma non ai professionisti. Ieri i presidenti dei consulenti del lavoro e dei commercialisti Marina Calderone e Massimo Miani hanno disertato l'incontro organizzato dall'Agenzia delle Entrate dedicato proprio al contributo a fondo perduto previsto dal decreto. Questo è un così breve sunto introduttivo della questione. Sempre dalla prima del Sole 24 Ore, Fed e Wall Street, i superpoteri di Fink, Larry Fink guida di BlackRock, colosso leader dell'asset management. Ebbene, il gruppo ha evitato finora i destini ribassisti, da inizio anno è sostanzialmente invariato, leggiamo. Piano di sostenibilità a 10 anni, così Enel sconfigge la pandemia. C'è una doppia intervista alla D. Starace e al presidente Michele Crisostomo. Il Covid-19 non frena la transizione verso un'economia sostenibile, dicono. La UE accelera sui Green Deal, i fondi del Recovery Fund saranno vincolati a iniziative green e digitali. Per Francesco Starace, AD di Enel appunto, e Michele Crisostomo, neopresidente, le imprese sostenibili reggono meglio gli shock. Per questo motivo il nuovo piano industriale potrà guardare a un orizzonte di 10 anni. L'intervista di Laura Serafini, appunto, nelle pagine interne. La pandemia, il titolo, sconfitta con la sostenibilità, piano Enel a 10 anni. Non bisogna fare, dicono, l'errore della crisi del 2008-2010, quando sono stati messi in campo molti fondi per far ripartire un sistema che già sapevamo doveva essere cambiato. Non sprechiamo questa opportunità, anzi approfittiamo per accelerare il cambiamento, visto che i soldi ci sono. Sul fronte del Green New Deal in Europa vedo, dice Starace, questa accelerazione. Si stanno mettendo in campo i fondi del Recovery Fund, condizionandoli a iniziative che abbiano 3 criteri. Rientrino nel Green Package, abbiano un alto contenuto di digitalizzazione e creino posti di lavoro. Posso capire che un'azienda automobilistica che ha ampie scorte di auto tradizionali invendute chieda un anno di tempo, sarebbe però una follia, dopo aver venduto quelle auto, ritornare a produrle allo stesso modo. Così Starace, appunto, sul Sole 24 Ore. Poi c'è ovviamente il ricordo del collega Stefano Carrer, che anche gli ascoltatori di Radio 24 hanno sentito molte volte, prima in collegamento da Tokyo e poi qui dalla sede di Via Monterosi. Il ricordo è affidato al direttore Fabio Tamburini. Carrer è stato ritrovato morto ieri nei monti della Val d'Intelvi, colpito appunto, come dice Tamburini, dalla mala sorte. Ricorderò Stefano Carrer perché aveva tutte le caratteristiche per farsi apprezzare: senso della notizia, capacità di analisi, impegno sul lavoro, grande professionalità, e in più spiccavano bontà, gentilezza d'animo e lo sguardo mite, mai prepotente, sempre disponibile, squisito nei comportamenti, consapevole del suo valore professionale senza arroganza o presunzione. Per questo mi è capitato di dirgli sarebbe stato da clonare. I lettori del Sole 24 Ore gli devono articoli interessanti, mai superficiali, scritti con la necessaria accuratezza. È arrivato al capolinea troppo presto, tradito dai monti della Val d'Intelvi, colpito dalla mala sorte. Così appunto ricorda il direttore Fabio Tamburini in un articolo che poi prosegue nelle pagine interne. Andiamo alla Repubblica, apertura, la giustizia dimezzata, rispetto a un anno fa nei tribunali iscritti metà dei procedimenti, ci dice Repubblica. Solo a Roma 14.000 processi rinviati, studi legali a rischio fallimento. E poi si ricorda l'altro grande tema di discussione di queste ore, la scuola. Scontro PD 5 Stelle sull'assunzione di 80.000 insegnanti precari. Poi ancora sempre sulla questione epidemia, Lombardia forse chiusa oltre il 3 giugno, Fontana, il governatore, dice non lo meritiamo. E poi iniziamo con Repubblica a ricordare l'anniversario della morte di Falcone. E un taglio è particolare quello che sceglie Repubblica, cioè con un articolo di Roberto Saviano ci ricorda quella foto di Francesca e Giovanni. C'è una foto, scrive Saviano, che ho conosciuto di recente, ritrae Giovanni Falcone e Francesca Morvillo al mare. I visi abbronzati sembrano sereni, hanno gli occhi chiusi, le teste poggiate l'una all'altra. Un momento di pace. Osservo la foto e penso, come hanno fatto a sottrarsi, anche solo per un attimo, all'angoscia di una vita di pressioni, minacce, delegittimazione e scorta? Come hanno fatto a chiudere gli occhi e ad abbandonarsi al sole? Francesca Morvillo è l'unica magistrato donna a essere stata assassinata nella storia d'Italia. Difficile misurare il peso della sua influenza nelle scelte non solo di Falcone, ma di tutto il pool antimafia di Palermo che in quegli anni frequentava. Francesca era giudice del Tribunale di Agrigento e poi sostituto procuratore a Palermo presso il Tribunale dei Minorenni. Alla strage di Capaci del 23 di maggio del 1992 sono dedicate appunto molte pagine, molti ricordi sui quotidiani di oggi. Troveremo in particolare proprio un'intera copertina della Stampa, una sovracopertina rispetto appunto alla prima del quotidiano, dedicata interamente a questo tema, Giovanni Falcone 28 anni dopo cercando l'innocenza perduta. Questo è il titolo che viene attribuito poi il ricordo e commento del direttore Massimo Giannini. Ma torniamo un attimo a Repubblica per un'altra questione relativa al coronavirus che viene poi approfondita a pagina 7, 6 e 7 in particolare, senza lavoro e senza sostegno. Dopo il boom della cassa integrazione in aprile, 835 milioni di ore erogate, ecco i racconti di chi non ce la fa o non riesce ad avere nemmeno gli ammortizzatori sociali e in particolare il tema che si approfondisce è quello delle mense, noi addette alle mense con un assegno da 300 euro. È una situazione tragica che colpisce soprattutto la condizione femminile perché questi lavori li facciamo soprattutto noi donne, spiega Maria Cristina Trento. Mentre appunto viene intervistata da Matteo Pucciarelli e riceve un volontario della Protezione Civile che le consegna un buono spesa di 40 euro da spendere alla COP. La nostra è una situazione tragica appunto che colpisce soprattutto le donne. La scuola infatti non è fatta solo di insegnanti e impiegati, ci sono anche le addette alle mense, gli assistenti di alunni con difficoltà, le addette alle pulizie, tutte in forza alle cooperative esterne che già normalmente non se la passano bene, ma adesso con il Covid, le scuole chiuse, la cassa integrazione a singhiozzo, rendono la situazione disperata. E così via, poi appunto si prosegue nella descrizione di questa difficile situazione per questi lavoratori a cui in vero si è poco pensato. Corriere della Sera, cala il rischio in Lombardia, questo è il titolo di apertura, indice di contagio basso in tutte le regioni, tranne che in Valle d'Aosta, giù i positivi. Il contagio cala in tutta Italia tranne che in Val d'Aosta, segnali incoraggianti dalla Lombardia, aperta un'indagine sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, qui siamo in provincia di Bergamo. Sempre dalla prima del Corriere della Sera vediamo la prima delle tante foto che vengono pubblicate di Trump, del Presidente degli Stati Uniti, con la mascherina. Alla fine anche lui ha ceduto. Finora Donald Trump non aveva mai indossato la mascherina, l'ha fatto visitando un impianto della Ford nel Michigan, riconvertito alla produzione di ventilatori. ancora sul Corriere della Sera, vaccinazione anti-influenza per tutti i bimbi, si allarga la platea, non un obbligo ma una raccomandazione per il prossimo autunno. Vaccino gratuito anche per i bambini da 0 a 6 anni e per gli over 60 e non solo, come oggi, per gli ultra 65 anni e per chi ha patologie che aumentano i rischi di complicazioni. Questa è l'ipotesi a cui lavora il Ministro della Salute, il Ministero della Salute, che sta per emanare la nuova circolare sulla vaccinazione anti-influenzale. Ma sarà vaccino gratis anche per tutti gli operatori sanitari delle RSA. Così Laura Cuppini e Mariolina Iossa affrontano questo tema sul Corriere della Sera. Prima di andare alla viabilità, qualche passaggio dell'articolo di Fiorenza Sarzanini e Alessandro Trocino alla pagina 5 relativo ai controlli nel corso di questa emergenza sanitaria. Errori, anomalie, lacune nei report delle regioni. Intero sistema a rischio con monitoraggi di parte. Andiamo a leggere i report anomali. Per il professor Nino Caltabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che analizza sistematicamente le relazioni che vengono prodotte dalle regioni, il fatto che la regione sia titolare del monitoraggio espone a comportamenti di tipo opportunistico, questo è il virgolettato. Lo dice in termini ancora più netti il biologo Enrico Bucci. È ovvio che se chiedi alle regioni di fornirti dati decisivi su aperture o chiusure, saranno loro a determinare quali e come darteli secondo logiche politiche interne. Al di là di eventuali mistificazioni, ci sono poi errori emersi platealmente negli ultimi giorni. La Fondazione Gimbe ha rilevato come nei report lombardi si comunichino i dimessi dagli ospedali, con una sovrastima dei guariti. Sempre in Lombardia, secondo il Fatto Quotidiano, dall'11 maggio sarebbero spariti dal grafico dei contagi di Milano i casi confermati e sintomatici. Ma non c'è solo la Lombardia. Il Trentino è improvvisamente passato da una media di rapporto contagi-tamponi superiore al 4% il 28 aprile, con gravi preoccupazioni, a quella ultra rassicurante dell'11 maggio, dello 0,14%. Non un miracolo, ma un calcolo di contagi più bassi per errore. Nelle Marche, da un giorno all'altro, si è cominciato a contare solo i casi sintomatici. Dalle regioni arrivano foglietti Excel quando va bene, che dicono poco o niente per analisi serie. Il vice ministro alla salute Per Paolo Sileri chiede più accuratezza, ma è un deficit strutturale, perché per esempio si sa il numero complessivo dei tamponi, ma non si sa fatti a chi e come, se è il primo o il secondo di conferma, se è fatto asintomatici o no, e questo impedisce di stabilire priorità nelle politiche dei tamponi successivi. Il tracking dovrebbe basarsi anche sui test degli anticorpi. La Lombardia sconsiglia quelli rapidi, nonostante diversi studi scientifici nel frattempo ne abbiano stabilita l'attendibilità. Non è chiaro quanti ne siano stati fatti e a chi. Non sono noti, per asserite ragioni di privacy, i dati della mortalità dei singoli comuni. E via via, così appunto sul Corriere della Sera trovate questo articolo, pagina 5, con tutte le difficoltà di monitorare la situazione. Abbiamo la viabilità tra pochissimo. In primo piano. Torniamo in studio, torniamo con una domanda che arriva da un ascoltatore, tra l'altro. Studi legali che rischiano il fallimento, ma se guadagnano sulle cause un sacco di soldi, com'è possibile? Allora vi leggo, perché è giusto farlo, qualche passaggio. Torniamo su Repubblica prima di proseguire. Qualche passaggio delle interviste che sono fatte, in questo caso da Dario Del Porto a Claudio Botti, uno dei più affermati penalisti napoletani, che non nasconde, scrive Del Porto, amarezza e preoccupazione. Se continua di questo passo, molti studi legali saranno costretti a chiudere. Addirittura, avvocato Botti: sì, la situazione è drammatica, non sto esagerando. Credo che il distretto di Napoli sia quello dove, nella cosiddetta fase 1, si è registrato un blocco pressoché totale delle attività e non vanno meglio le cose adesso. La giustizia è un servizio essenziale. Al di là dei medici e dei farmacisti, nessuno ha pensato di chiudere supermercati, servizi di nettezza urbana, mezzi pubblici. In tribunale invece si è fermato tutto. E con quali conseguenze? Il processo infinito che passa da un rinvio all'altro congela la vita del cittadino, clienti che fanno gli imprenditori. Dopo anni di dibattimento avevano ragionevoli speranze di ottenere una soluzione. Adesso non è stata neppure notificata la data della prossima udienza, ma intanto non possono partecipare a gare d'appalto. Poi ci sono le persone offese che hanno diritto alle sentenze. Sì, ma gli avvocati, penso soprattutto ai più giovani che hanno fatto sacrifici, magari aiutati dai genitori per aprire uno studio, ora si ritrovano paralizzati. In tribunale si entra solo su appuntamento, le cause saltano, le spese invece non si fermano. Fitto dei locali, utenze, segretarie. Vedo tanta rabbia tra i colleghi, ma nessuno li ascolta. Questo qualche passaggio, ma l'approfondimento sono due pagine, quindi ben due pagine su Repubblica. Andiamo alla stampa, almeno per l'apertura. Vi ho detto che c'è un ricordo, due pagine in una sovracopertina della strage di Capaci, poi all'interno vediamo titolo di apertura, autostrade, la sfida al governo, la società stoppa il piano di investimenti senza i via libera ai prestiti, Conte studia un compromesso. Centropagina, virus e crisi spengono le ambizioni della grande Cina di Xi, con ufficiali di polizia nella fotografia che sfilano all'ingresso della città proibita a Pechino. La globalizzazione entra nella fase 2, l'articolo dell'ex direttore Riotta. E poi ancora dalla prima della stampa l'intervista al presidente del Veneto Zaia, ignobile la speculazione e lo sciacallaggio contro il Nord. All'indomani della battaglia in Parlamento sulla sanità lombarda alle prese con il Covid, dove i grillini hanno pestato con il maglio sulla Lega, Luca Zaia si schiera accanto ai suoi e parla di orrendo sciacallaggio. E a questo punto salto un pochino rispetto all'ordine, visto che abbiamo parlato di Zaia, lo scudo a difesa del Nord arriva dalle pagine del Giornale, l'assalto continuo, giustizia truccata, le toghe si sono messe d'accordo non solo per incastrare Salvini, ecco tutto quello che è successo e sta succedendo anche a Berlusconi. E poi il ministro Boccia sta col grillino violento, sul Nord ha ragione. La prima è praticamente dedicata in gran parte a questo tema. Non ci sono solo Salvini e la Lega nel mirino delle toghe, come dimostrato in questi giorni. Da più di 25 anni è in corso un assalto giudiziario nei confronti di Silvio Berlusconi e di tutto il centrodestra. Assalto organizzato scientificamente e metodicamente da una parte della magistratura che si ostina a voler fare politica attraverso la giustizia. Andiamo sulla Verità, anche qui in odio a Salvini, censurano Mattarella, ogni frase del presidente produce titoloni su TG e quotidiani, ma se parla con il capo dell'opposizione il giorno dopo che la Verità ha rivelato il grave pregiudizio dei magistrati nei suoi confronti, cala il silenzio, perché tutto è lecito pur di affossare il nemico politico. Come vedete, ampio spazio anche qui. E poi su Libero, obiettivo eliminare Salvini. L'ordine parte da certi giudici. In base ai dialoghi fra procuratori, Matteo ha difeso l'Italia dall'invasione, eppure il 4 luglio sarà processo per sequestro di immigrati che violano la legge, scoperchiato il complotto. E qui scrive Piero Senaldi. Ma la gran parte della prima di Libero è poi dedicata a giornalisti e magistrati, compagni di merende, quindi si torna sul tema di cui faceva cenno la Verità. Le intercettazioni tra cronisti e toghe. Palamara al telefono dice Milella, intesa come Liana Milella di Repubblica, stai buona, Bianconi dei servizi, contito il rapporto, i suggerimenti di Amadori. E quindi vedete che lo scontro è aperto e le fazioni ben schierate. Andiamo al Quotidiano Nazionale, dal quale apprendiamo che estate in Italia è la grande bellezza, questo è il titolo di apertura. Il ministro del turismo Franceschini, visitate i borghi e i luoghi minori della nostra penisola, non c'è solo il mare. Ma apprendiamo, dicevo, che la musica non si ferma, siamo liberi e nomadi. La storica band in concerto nonostante il virus, sarà la prima probabilmente a tornare in piazza, almeno a quanto risulta. Noi vagabondi, il virus non fermerà i nostri concerti. La band riparte con un live a metà giugno in Veneto. Ci siamo ridotti il cachet del 30%. E quindi ci sono poi tutti i calcoli dettagliati a pagina 13 nell'intervista di Andrea Spinelli. Facciamo due conti, visto che nelle 1000 presenze rientrano pure il personale, 1000 presenze saranno quelli che potranno assistere al concerto, rientrano tutti i conti in questi passaggi. Insomma, alla fine, certo, non si parla di conti e di incassi da capogiro, ma della possibilità comunque di tornare a suonare in piazza. Poi dice in particolare Beppe Carletti: col mio mezzo secolo abbondante di concerti sulle spalle potrei anche rimanere a casa senza morire di fame, ma ci sono gli altri membri della band, i tecnici, i fonici, gli attrezzisti a cui pensare, una ventina di famiglie che vive di questa attività. Su Avvenire, il male in campo, l'anatema dei vescovi della Calabria contro lo sfruttamento e il caporalato, a Saluzzo 3.000 braccianti in cerca di un lavoro e di un posto in cui dormire. Intervento dopo lo sciopero degli invisibili a Gioia Tauro, regolarizzazione, un passo avanti. Questa è l'apertura. Contagi e malati in netto calo, ma le regioni restano chiuse, prudenza sugli spostamenti, si apre il caso di Atlantia, senza prestito, stop lavori. Così ci ricorda Avvenire. Andiamo al Fatto Quotidiano, Regione Lombardia, i 10 nuovi errori, pochi tamponi, niente mappature dei contagi, usche e reti territoriali carenti, dati incompleti, eccetera, altro che fase 3. Conclude il Fatto Quotidiano. E c'è un'intervista a Pierfrancesco Maiorino, parla l'eurodeputato Dem: non attacco la mia terra ma il sistema della destra, un caso unico al mondo gestito male da arroganti. Si ritorna appunto sulla questione della gestione della sanità lombarda. Sul Manifesto, il colore dei soldi, senza prestito stop a 14,5 miliardi di investimenti. Dopo FCA anche Benetton batte cassa al no del governo, minaccia andremo per vie legali. L'arroganza di Atlantia, a quasi 2 anni dalla tragedia del ponte Morandi, costata la vita a 43 persone. Molto spazio sulla prima del Manifesto è dedicato alla scuola, stallo sui concorsi, oggi nuovo vertice, maggioranza spaccata, PD e LeU contro 5 Stelle e Renzi, i sindacati dicono siamo pronti allo sciopero. Spazio anche a San Siro si può abbattere, ma per Sala è una grana, e qui lo stadio di Milano continua a far discutere. Il Messaggero vorrei segnalare, perché l'Italia supera il primo test e il tema di apertura, ma anche il Messaggero torna, anzi resta, perché è un tema sul quale insiste da tempo, migliorare il sistema per l'uscita dal tunnel, monitoraggio Covid. Nei giorni scorsi, scrive Luca Ricolfi, si è molto discusso di 3 regioni, Lombardia, Molise e Umbria, che secondo i parametri monitorati dalle autorità sanitarie presentavano un rischio di ripresa dell'epidemia più alto di quello delle restanti regioni. In Umbria in particolare, qui si ricorda l'indice, ma dopo un po' di polemiche ha provveduto l'Istituto Superiore di Sanità a gettare acqua sul fuoco, con varie precisazioni e distinzioni. In sostanza tranquilli, l'indice R-Conti è ballerino, quando i casi sono pochi e comunque non è una pagella. Ieri il caso dell'Umbria si è improvvisamente sgonfiato. Il nuovo valore comunicato da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute è solo dello 0,53%. Segnalo poi l'intervista al Ministro degli Esteri Di Maio: rischio di tensioni sociali, girerò l'UE per aiutare il turismo, dice. Infine, a tutta pagina sul Secolo XIX, ovviamente la questione autostrade che sfida il governo e in Liguria chiuse 18 gallerie. Intanto, la società senza liquidità e garanzia del prestito statale, dobbiamo fermare gli investimenti. Noi ci fermiamo con questa rassegna stampa, ci ritroviamo con Carlo Gabardini alle 8:30 per Si può fare, intanto GR24.